Voglio lasciare un segno, voglio lasciare un segno, lasciare un segno. Voglio lasciare un segno, lasciare un segno, lasciare un segno. Voglio lasciare un segno, lasciare un segno, lasciare un segno. Voglio lasciare un segno, lasciare un segno. Voglio lasciare un segno, voglio che qualcuno si ricordi di me con una canzone, una firma, un graffito. Perché questa società dimentica spesso, con superficialità cancella i graffiti e interrompe la musica con la pubblicità. C'è spazio solo per le cose che fanno guadagnare, c'è spazio solo per l'immagine, il resto è da buttare. Ti vogliono pilotare, far diventare un'anonima persona. Ti vogliono tranquillo, ubbidiente, un automa. Hanno creato le mode, creato le tendenze per soffocare la personalità con apparenze. Ma io non sono un numero, ho pensieri miei, non ho miti eroi, ho finti dei. Sclero, sclero, voglio lasciare un segno, lasciare un segno. Sclero, sclero, sclero, voglio lasciare un segno, lasciare un segno. Sclero, sclero, sclero, sclero, voglio lasciare un segno, lasciare un segno. Sclero, sclero, sclero, sclero, voglio lasciare un segno, voglio lasciare un segno. Voglio che qualcuno si ricordi di me. Nulla è passato in vano, la gioia, la sofferenza. Perché sono una persona, sono uno dei tanti, ma siamo tutti diversi e tutti distanti. Voglio lasciare la mia firma, voglio lasciare il mio logo su cabine, case, tram, bus, muri, in ogni luogo. Anche se so che verrà cancellato dal tempo e dalla società, che vuole tutto grigio e che non ricorderà. Preferisce guardare ogni giorno la pubblicità, preferisce mostrare una triste realtà. Sclero, sclero, voglio sclero, lasciare un sclero, segno, sclero, lasciare un sclero, segno. Sclero, sclero, sclero, sclero, voglio sclero, lasciare un sclero, segno, sclero, lasciare un sclero, segno. Sclero, sclero, sclero, sclero, voglio sclero, lasciare un sclero, segno, sclero, lasciare un sclero, segno. Sclero, sclero, sclero, sclero, voglio sclero, lasciare sclero, un segno, sclero, lasciare un sclero, segno. Sclero. Lascio un segno, non ti dimenticare. Lascio un segno da interpretare. Lascio un segno per la gioia, un segno per la noia, un segno per la tristezza, un segno per la contentezza, un segno per l'odio, un segno per l'amore, uno per sognare, un segno per la rabbia e anche un segno per dimenticare. Aha. Sclero, sclero, voglio sclero, lasciare un sclero, segno, sclero, lasciare un sclero, segno. Sclero, sclero, sclero, sclero, voglio sclero, lasciare un sclero, segno, sclero, lasciare un sclero, segno. Sclero, sclero, sclero, sclero, voglio sclero, lasciare un sclero, segno, sclero, lasciare un sclero, segno. Sclero, sclero, sclero, sclero, voglio sclero, lasciare un sclero, segno, sclero, lasciare un sclero, segno. Sclero.